Capitolo primo. La preghiera liturgica. Un antico detto teologico afferma: la natura e la grazia non fanno nulla in danno. La natura e la grazia hanno le loro regole. Vi sono cioè alcuni presupposti determinanti che condizionano la sanità, la crescita, la fioritura della vita spirituale, sia naturale che soprannaturale. Queste leggi possono essere violate in casi particolari, quando lo giustificano, ovvero lo scusano, una veemente emozione, una grave necessità, una costituzione psichica singolare, un grande scopo o qualcosa di simile. Ma a lungo durare, questo non avviene impunemente. Allo stesso modo che la vita del corpo intristisce ed entra in crisi, quando le condizioni preliminari del suo sviluppo vengono a lungo trascurate, così avviene della vita dello spirito e della religione. Essa intristisce, perde la sua freschezza, la sua forza, la sua unità. Questo vale poi specialmente nella vita religiosa di una comunità ordinata da una regola. Nella vita dei singoli l'eccezione ha ancora grande spazio per intervenire. Non appena però viene in questione l'attività di una collettività di persone, non appena sa a che fare con concrete istituzioni, pratiche, preghiere, che disciplinano il complesso permanente degli atti di pietà comuni, allora assurge a problema d'esistenza per la vita di questa comunità il fatto che le leggi fondamentali della sana vita naturale e soprannaturale vengano rispettate o no. Non sono più infatti in questione forme d'atteggiamento religioso che devono soddisfare un bisogno religioso soltanto momentaneo, bensì istituzioni durature che esercitano di continuo il loro influsso sull'atteggiamento religioso delle anime. Esse non devono tanto dare espressione a uno stato d'animo del tutto singolare, quanto soddisfare le esigenze della media vita religiosa quotidiana. Esse rappresentano la forma della vita spirituale non di una persona che ha un determinato temperamento, bensì di una comunità in cui sono rappresentati i più vari temperamenti. Riesce pertanto chiaro che ogni errore costruttivo si farà sentire con inesorabile necessità. Da principio esso può ben essere nascosto dalle circostanze particolari, da emozioni, da esigenze speciali che hanno suscitato la forma corrispettiva di un atteggiamento religioso. Man mano però che queste vengono meno e si ristabilisce la condizione di spirito normale, anche quel difetto intrinseco emerge con forza progressiva, agendo quale elemento perturbatore in ampiezza e profondità. Quelle condizioni fondamentali appariranno nella maggiore limpidezza laddove la vita religiosa di una grande comunità poté svilupparsi in un lungo periodo di tempo. Qui le intime leggi della vita avranno quindi avuto il tempo necessario per potersi affermare pienamente. Nella vita comune di uomini dal temperamento più diverso, appartenenti a differenti ceti sociali, forse anche di nazionalità diversa, nel corso di epoche storicamente e culturalmente differenti, ciò che è casuale, che singolare, sarà fino a un certo grado venuto meno, e l'universale, il necessario, sarà emerso. La forma adeguata dell'atteggiamento religioso si sarà oggettivata. L'espressione perfetta di una siffatta disciplina della vita religiosa è offerta concretamente dalla liturgia della Chiesa Cattolica. Essa si è potuta sviluppare kata tuolu, cioè da ogni lato, secondo il tempo, il luogo e tutte le forme della civiltà. In tal caso, essa viene a costituire pure la migliore guida per la vita ordinaria, per l'ordine essenziale della vita religiosa comune. Il significato della liturgia deve pertanto essere meglio definito, e innanzitutto è da stabilire in quale rapporto esso stia con la vita religiosa non liturgica. Lo scopo prossimo e specifico della liturgia non è quello di dare espressione al culto individuale di Dio. Essa non deve edificare il singolo come tale, suscitare ed educare la sua vita religiosa. Nella liturgia non è il singolo che agisce e che prega, e neppure il complesso di una molteplicità di persone, come potrebbe essere la riunione in una chiesa, di una comunità, quale mera unità nel tempo, nello spazio, nei sentimenti. Il soggetto, l'io della liturgia, è piuttosto l'unione della comunità credente come tale, è qualcosa che trascende la semplice somma dei singoli credenti, e insomma la Chiesa. La liturgia è il culto ufficiale e legale della Chiesa e viene praticato e diretto da ministri da essa scelti e incaricati appositamente di ciò, i sacerdoti. In essa Dio deve essere venerato dall'unità sociale e religiosa come tale, e questa in tale venerazione e per tale venerazione deve essere edificata. È assai importante intendere questo carattere essenziale e oggettivo della liturgia. Qui infatti si distingue il concetto cattolico del culto comunitario dalla concezione protestante prevalentemente individualistica, che poi il singolo credente, proprio dal suo immergersi in questa superiore unità, venga intimamente e specificamente liberato ed educato, questo ha il suo fondamento nella natura individuale e sociale insieme dell'uomo. Accanto alle forme di devozione strettamente rituali, del tutto oggettive, ve ne sono altre in cui il momento soggettivo si presenta con maggior forza. Queste sono le devozioni popolari, ad esempio le preghiere pomeridiane dei libri di chiesa, le devozioni per luoghi, tempi, circostanze determinate, eccetera. Esse portano assai più l'impronta del tempo particolare dell'ambiente, sono espressione immediata delle speciali caratteristiche della comunità. Per quanto in ogni caso più universali e oggettive che le preghiere affatto private dei singoli, tuttavia sono pure a loro volta più particolari, più private della preghiera della Chiesa, della liturgia. In essa perciò si fa sentire maggiormente il particolare bisogno di edificazione del singolo. Di conseguenza, le forme e leggi della vita liturgica non possono senz'altro costituire regola per la preghiera extraliturgica. Mai si potrà pretendere che la liturgia costituisca la forma esclusiva della vita religiosa comune. Questo significherebbe misconoscere le esigenze religiose del popolo credente. Piuttosto vi saranno sempre, accanto alle forme liturgiche, quelle della pietà popolare variamente atteggiate in corrispondenza alle mutevoli condizioni storiche, nazionali, sociali, locali. Nulla sarebbe più errato del voler sopprimere, per amore della liturgia, sane e preziose forme di vita religiosa popolare, oppure anche solo del voler adattare queste ultime alla prima. Quantunque però la liturgia e la pietà popolare abbiano ambedue i propri presupposti e scopi legittimi, tuttavia il primato deve essere riconosciuto al culto liturgico. La liturgia è e rimane la lex orandi. La preghiera non liturgica deve sempre svolgersi sulle direttive di essa e in essa sempre rinnovarsi, se vuol rimanere vitale. Non si può certo dire che la liturgia stia di fronte alla preghiera popolare allo stesso modo che il dogma al ripensamento individuale della fede, ma una certa corrispondenza con quel rapporto normativo esiste. Mettendosi a confronto con la liturgia, ogni altra forma di pietà può sempre riconoscere nel modo più facile le proprie manchevolezze e rimettersi così sicuramente sulla via ordinaria. Le mutevoli esigenze dei luoghi, dei tempi, delle speciali circostanze si fanno sentire da sé nella vita religiosa popolare, ma di fronte a essa c'è la liturgia, da cui irraggiano chiaramente le leggi fondamentali, identiche sempre e dovunque, della sana e genuina devozione. In seguito verrà fatto il tentativo di ricavare dalla liturgia alcune di queste leggi. Solo un tentativo però, il quale nei suoi risultati non vuole essere né definitivo né completo. La liturgia mostra innanzitutto che la vita di preghiera della comunità deve essere sostenuta dal pensiero. Le sue preghiere sono interamente dominate e compenetrate efficacemente dal dogma. Chi non abbia ancora ben capito la preghiera liturgica prende tali preci spesso come delle abili formulazioni teologiche, fino a che però egli avverte che queste proposizioni ben levigate e ben combinate traboccano d'interiore emozione. Tali sono innanzitutto i mirabili oremus delle messe domenicali. Anche dove la corrente della preghiera si effonde più abbondante, essa è sempre diretta e padroneggiata dalla chiarezza del pensiero. Messa e breviario sono intessuti di brani presi dalla Sacra Scrittura oppure dalle opere dei padri della Chiesa e costringono così continuamente a pensare. Queste lezioni vengono spesso introdotte e concluse da brevi preghiere di carattere particolarmente meditativo, responsori, nelle quali quanto è stato udito o letto ha modo di riecheggiare nel cuore e di penetrarvi in profondo. La lex orandi, la liturgia, secondo l'antico detto, è pure la lex credendi, la legge della fede, e quindi tutta sostanziata del tesoro di verità della rivelazione. Con ciò non deve essere certo detto che cuore e sentimento non abbiano alcuna importanza nella vita di preghiera.